Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, un'altra puntata di Focus Economia. Allora, subito un aggiornamento della borsa che sta per fortuna un po' migliorando dopo un calo pesante a metà seduta dovuto soprattutto alla situazione di Deutsche Bank, ma anche a alcuni dati macroeconomici americani. Resta pesante il calo, ma non così pesante: meno 3,4% il MIBTEL, meno 3,9% l'S&P MIB. Ben peggio fa ancora Londra, meno 5,8%, e Francoforte meno 5%, come Parigi meno 5%. Quindi tutto sommato Milano perde quasi un punto e mezzo, o almeno un punto e mezzo meno di altre borse straniere. Questa mattina l'America perde il 3,22% sul Dow Jones e il 3,35% sul Nasdaq. Quindi insomma il piccolo recupero di inizio anno ce lo siamo giocati già a questo punto su tutti i principali indici mondiali. Milano, dicevamo, comunque un po' meglio, nel senso che Eterna guadagna l'1,2%, Snam lo 0,4%, Mediobanca più 0,2%. Ovvio, vista la situazione su Deutsche Bank, che anche i bancari italiani stiano in flessione, che è molto molto pesante per Unicredito, meno 7,3%, di nuovo molte vendite anche sul Banco Popolare, meno 6,8%, torna a 5 euro per azione, e Intesa meno 4,9%, Ubibanca meno 4,80%. Di nuovo sotto pressione anche i due titoli legati al settore costruzioni, Italcementi meno 8,5%, il peggiore in questo momento, e Buzzi Unicem meno 6,2%. Non se la passa bene Bulgari, che perde il 5,20%, e Luxottica, che perde il 6,1%, anche come conseguenza di un euro che si mantiene debole a quota 1,31. Andiamo avanti con Pirelli meno 4,7%, Autogrill meno 5,12%, Ubibank l'abbiamo detta, Atlantia meno 4,5%, ci fermiamo con i titoli che perdono il 4%, Seat meno 4,90%, Telecom meno 4,3 come Tenaris, ST Microelectronics, Saipem meno 4,1%. Avremo un'ampia pagina di borsa oggi, visto appunto l'accelerazione negativa che le borse hanno conosciuto, ripeto, da metà seduta. Una buona notizia oggi, una delle poche, ma insomma c'è, riguarda di nuovo il prezzo del petrolio. Prezzo del petrolio che è sceso a 36,5 dollari a New York dopo dati americani sulle scorte di greggio che sono risultate superiori, anzi sono aumentate ben più delle attese, mentre restano preoccupazioni sul gas, ma queste di carattere diciamo geopolitico, di nuovo accuse tra Mosca e Kiev. 349-238-6666 per i vostri sms. Nella prima parte del programma ci occuperemo del dato di oggi sulla produzione industriale. Allora, era inimmaginabile un buon dato, infatti il dato è pesante, meno 12,3%, pesante anche perché la componente auto ha fatto un meno 40%, insomma meno 42% la produzione di auto nel mese di novembre. Le prospettive non sono buone, secondo il Centro Studi Confindustria. In realtà vorremmo anche capire come nel frattempo i distretti industriali si stiano muovendo per affrontare questa crisi. È un tema che seguiamo con interesse da settimane, anche perché all'interno delle difficoltà poi nascono anche le idee migliori. Le crisi hanno anche un elemento, diciamo, creativo e positivo se colte come opportunità e non solo come, diciamo, così, elemento di criticità. Le notizie in breve. Gas, rubinetti ancora chiusi. Perché? Perché in sostanza c'è uno scambio di accuse, l'avete sentito più di una volta, tra Russia e Ucraina sulla ripresa delle forniture di gas. Ma oggi il Presidente della Commissione Europea, José Manuel Barroso, ha invitato i due paesi a dirimere subito il contenzioso, e poi ha aggiunto: senza fornitura per le società europee l'Europa passerà alle vie legali. L'Europa deve agire immediatamente per evitare che in futuro si ripetano situazioni come quella attuale. Per ciò che riguarda le ultime notizie, vorrei dirvi una cosa. Come sapete, siamo stati in grado di mandare in un tempo record alcuni osservatori sia in Russia che in Ucraina. Abbiamo parlato con entrambe le parti per far accettare osservatori russi in Ucraina e osservatori ucraini in Russia. Inoltre, ci sono osservatori europei sul posto. Le ultime informazioni a nostra disposizione sono le seguenti. Il gas anche oggi non sta arrivando. Gli osservatori non stanno avendo difficoltà particolari, salvo che non ricevono sufficienti informazioni da Kiev, ma su questo punto ci stiamo lavorando. Le parti in questione dichiarano di essere pronti a fornire una quantità simile di gas, circa 100 milioni di metri cubi, ma sono totalmente in disaccordo sui punti di accesso e sulle tratte da seguire. Su questo ultimo aspetto stiamo cercando di far trovare un accordo, ma è fondamentale che le parti si coordinino e trovino tra di loro un accordo. Non è responsabilità dell'Unione Europea fornire gas, ma è responsabilità di Russia e Ucraina. E poi Barroso ha anche lamentato il fatto che nei paesi più colpiti da questa crisi del gas ci siano ormai decine di migliaia di famiglie senza riscaldamento e senza gas per cucinare per i propri bimbi, solo 50.000 in Bulgaria, perché va detto che l'Italia dipende dal gas russo per un 30%, ma paesi come la Bulgaria dipendono per il 96%, cioè tutto, così come la Repubblica Ceca, la Grecia, 80%, la stessa Turchia ha il 70% del gas che utilizza di importazione russa, Ungheria e Austria il 60%. Noi quindi siamo messi un po' meglio, con un 30% che è inferiore anche alla quota tedesca. Oggi il ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola ha detto: comunque supereremo l'inverno anche se dovessero mancare le forniture russe. Tenuto conto della dimensione degli stoccaggi e della massimizzazione, siamo prevedibilmente in grado di superare l'inverno anche senza il gas russo. Noi abbiamo una situazione diversa, ma comunque che va ulteriormente rafforzata nella capacità di stoccaggio del gas che dobbiamo prevedere. Va bene, nel frattempo il presidente russo Medvedev ha proposto ai vari paesi consumatori di gas russo di tenere un vertice dei capi di Stato di governo a Mosca il 17 gennaio, ma ripetiamo, la posizione dell'Europa è: o Mosca si mette d'accordo con Kiev o noi andiamo per vie legali, anche perché sono tutti contratti già firmati e forniture in cui i pagamenti sono già stati, se non effettuati, comunque contrattualizzati, per cui insomma si tratterebbe di una rottura di un contratto. L'Euribor, ci chiedete, sì, è l'altra buona notizia della giornata, come ormai avviene da settimane: è sceso al 2,57% il tasso interbancario a 3 mesi, ossia il tasso che le banche applicano fra di loro per i prestiti, e siamo al minimo dal 7 febbraio del 2006. Anche in attesa della Banca Centrale, sappiamo che molti prevedono un ulteriore taglio dei tassi di interesse. E chiaramente si riunisce domani sapremo. Andiamo avanti sulla borsa, abbiamo già detto, praticamente in queste ultime sedute tutti i rialzi del 2009 le borse se le sono mangiati. Il motivo si chiama Deutsche Bank. Oggi le perdite della trimestrale di Deutsche Bank sono molto alte, 4,8 miliardi di euro, e l'anno si chiuderà, il 2008, con un passivo, con un rosso di 3,9 miliardi. Anche Citigroup non se la passa meglio, ha anticipato i risultati del trimestre c'è una perdita operativa di 10 miliardi di dollari, che andrà a sommarsi poi ai già 45 miliardi di dollari di svalutazioni effettuate. E ricordiamo anche che Citigroup a questo punto avrà una cura dimagrante da cavallo, non so se si possa dire, ma insomma si ridurrà di un terzo, praticamente dei 300.000 dipendenti in 100 paesi, 100.000 non ci saranno più. Le vendite a dettaglio in America meno 2,7%, un calo nei consumi americani peggiore delle attese. Poi ci sono anche in questa crisi storie che da un lato raccontano anche di una maggiore sobrietà, l'abbiamo già detto altre volte, non è che questa crisi abbia solo aspetti negativi, un po' più di sobrietà, magari delle volte stipendi un po' più bassi a certi manager, lo sviluppo di auto ecologiche, minore dipendenza dal petrolio, tutto questo potrà essere nel medio termine anche un buon risultato di questa difficoltà. Ma dicevo, Tiffany ha annunciato che sotto Natale le vendite sono calate del 21%, e solo in America sono calate del 35% per il mitico marchio di gioielli Tiffany, ben peggio di ogni attesa. Ma in Giappone 2200 manager di Toyota hanno deciso di acquistare volontariamente, questo andrebbe anche un po' investigato, però volontariamente un'auto della casa di Nagoya entro la fine di marzo per dare un segnale forte e di attenzione da parte dei manager che già hanno accettato di decurtarsi lo stipendio a fronte di una congiuntura che potrebbe avere ulteriori effetti negativi anche su Toyota. La Camera, veniamo all'Italia, ha votato la fiducia al governo sul decreto legge anticrisi, quello del bonus famiglia, degli assegni familiari, dei mutui prima casa, degli affitti minifondo e anche delle regole sul massimo scoperto. Ma nel frattempo, per quello che riguarda la riforma delle pensioni, oggi il ministro Maurizio Sacconi, ministro del lavoro, intervenendo all'assemblea dei pensionati della FNP CISLA, ha detto: attenzione, non è il tempo adesso di introdurre riforme strutturali. Non è questo il tempo delle riforme strutturali. Questo non è il tempo delle riforme strutturali. Non è il tempo della riforma delle pensioni, non è il tempo della riforma degli ammortizzatori sociali, non è il tempo di riforme di carattere strutturale. Sì, hanno ragione alcuni ascoltatori, la Deutsche Bank è la stessa che ieri dava giudizi, insomma, sui vari titoli, ognuno è bravo a giudicare gli altri. Andiamo avanti, il gufo ormai insomma, si impone, perché è arrivata l'OCSE oggi e ci ha detto che l'intera area euro crescerà sotto il suo potenziale fino a metà del 2010. E mette anche in crisi l'attuale difficoltà dell'economia, la crisi economico-finanziaria mette a rischio anche le politiche di bilancio, cioè deficit in sostanza, dei paesi dell'area euro. Noi tra l'altro in questi anni siamo stati dal 2003 al 2007 come Italia la maglia nera della crescita, solo il Portogallo è cresciuto meno di noi, siamo cresciuti dell'1,1% in media, mentre la media dell'area euro è stata dal 2003 al 2007 del 2%. Visto che oggi è arrivato anche un PIL tedesco che nel 2008 è cresciuto dell'1,3%, e appunto l'OCSE ci mette in guardia che la crisi andrà avanti, che l'Europa crescerà meno del suo potenziale almeno fino alla metà del 2010, l'organismo che ha sede a Parigi si becca oggi il nostro animale preferito. Chi chiedeva il gufo ha avuto il gufo. Adesso noi restiamo sulla falsa riga, perché il dato dell'Istat di oggi, a novembre, la produzione industriale italiana ha fatto un meno 12,3% e su base annua meno 9,7%, è il calo più forte dal 1991. Un calo molto forte dovuto principalmente alla voce produzione di auto, meno 42,8% l'andamento della produzione automobilistica rispetto a un anno fa. Ed è il settimo mese in rosso. Nella seconda ora del programma parleremo anche delle previsioni diffuse oggi dal Centro Studi Confindustria, che ha detto a dicembre si fa il bis, meno 10%. Tant'è che poco fa il ministro Scajola ha detto: valuteremo a giorni se dare un eventuale sostegno al settore automobilistico anche in Italia. La Germania lo sta già facendo sotto un insieme di modelli. La Germania ha lanciato un piano comunque da altri 50 miliardi di aiuto alle famiglie e alle imprese. Allora, ringrazio per averci raggiunto in collegamento. Da un lato l'economista Aldo Bonomi, studioso attento dei distretti industriali, di come si muovono queste piattaforme produttive del paese. Buonasera, professore. Buonasera a voi. E dall'altro continua il viaggio che facciamo ormai da settimane nei vari distretti, nelle varie aree produttive. Oggi è la volta di Vicenza e ringrazio anche il presidente quindi dell'industriale di Vicenza, l'ingegnere Roberto Zuccato. Buonasera, ingegnere. Buonasera, dottore. Buonasera a tutti. La scheda, rapidamente, i dati di questa produzione industriale. Non poteva andare meglio di come è andata. Certo che insomma il calo più forte dal 1991. Un novembre così duro le imprese italiane non lo vivevano da 17 anni. E se per l'industria nel suo complesso il mese è stato molto freddo, per la sola industria dell'auto è stato addirittura glaciale. Catene di montaggio ferme per settimane e dipendenti in cassa integrazione sono state sintetizzate dall'Istat in una cifra, meno 43% di auto prodotte rispetto all'anno prima. Il crollo delle quattro ruote aggrava un risultato complessivo della nostra industria già di per sé preoccupante. A subire un duro colpo dalla crisi sono state infatti anche la meccanica, che ha archiviato un calo del 12,5%, e la siderurgia, meno 11%, rispetto a novembre 2007. Sono riuscite a contenere almeno in parte le perdite la chimica, con una produzione scesa del 6%, l'elettronica, meno 5,7%, e l'industria alimentare, meno 5%. Novembre è stato poi un mese difficile anche per le produzioni più classiche del Made in Italy. I mobili hanno accusato un calo vicino all'8%, pelli e calzature un meno 9%. In questo quadro a tinte fosche spicca il piccolo progresso del tessile abbigliamento, unico settore in positivo, grazie ad un aumento della produzione dello 0,5% rispetto all'anno prima. Quindi qualche segnale c'è, ripeto, è inutile immaginare che novembre e dicembre, con quello che è successo su base mondiale, potessero andare meglio, però vorrei capire intanto dal presidente dell'industria di Vicenza, che significa 2.100 imprese, 24 miliardi di euro di fatturato del territorio, 100.000 dipendenti. Poi voi neanche, non è che siete un distretto, siete una somma di distretti: abbigliamento, orafo, conciario, produzione tessile. Qualche segnale di adesso, di gennaio, migliore c'è? Qualcosa si sta muovendo oppure è ancora, diciamo, profondo rosso, Zuccato? Beh, guardi, è ancora presto per dirlo. In effetti, se mi permette, la correggo, perché il fatturato industriale della provincia è superiore, nel 2007 è stato superiore ai 43 miliardi di euro. Ho fatto bene a ricordarlo. Con un'esportazione, l'esportazione è quasi 15 miliardi di euro. Quindi un territorio con una vocazione, un'importante vocazione anche verso l'esportazione, e soprattutto un territorio con una forte diversificazione manifatturiera. Ecco, questo ci permette, a parte, abbiamo due distretti fondamentali, che è il distretto della Concia e il distretto dell'Oro, che sono due distretti che forse in quest'ultimo periodo hanno sofferto più di altri, anche se c'è da segnalare che anche il distretto della meccanica e meccatronica in questi ultimi mesi di fine anno qualche segnale di sofferenza l'ha dato. Io però sono dell'idea che per capire bene come andrà la situazione bisognerà forse aspettare questo mese, perché molte aziende, avendo avuto, come è stato segnalato anche nella scheda, dei cali produttivi negli ultimi mesi, hanno preferito magari approfittare del periodo natalizio per prolungare un po' le ferie. Però dei segnali in ogni caso positivi ci sono, perché io ho avuto modo anche proprio in questo periodo di festività di incontrarmi con molti imprenditori del territorio, e ho felicemente constatato che moltissime aziende stanno continuando una crescita, un'espansione, e quindi questo è un segnale positivo che fa ben sperare. È innegabile comunque che la situazione sia abbastanza, per certi aspetti, preoccupante, e soprattutto perché è anche venuto a mancare un po' il supporto da parte della finanza e del credito. E questo è un tema che purtroppo affrontiamo da mesi. Presidente Zuccato, lo abbiamo detto già più volte, dalle le crisi nessuno le vuole, nella vita privata, nella vita professionale, ci mancherebbe, però dai momenti di difficoltà escono anche le idee migliori, le rivoluzioni positive, si ripensano i modelli, i paradigmi. Facevamo l'esempio di quello che Obama potrebbe fare in America con l'industria dell'auto, magari sarà la volta buona che partiranno modelli più ecologicamente compatibili. La sobrietà di certi manager e anche maggiore attenzione al rischio che alcune banche si prendono sarà sicuramente un portato positivo, anche se ci saremmo voluti arrivare in un altro modo. Ecco, lei che cosa nota, proprio a livello quasi di testimonianza, nei suoi associati, nei suoi colleghi, amici spesso? Cioè, che ha preso atto che questa crisi morde, poi le maniche vengono rimboccate e si cercano anche nuove soluzioni? Sì, c'è questo spirito. Difatti io non vorrei approfittarne proprio anche per lanciare un messaggio sia di fiducia ma anche di energia. C'è un messaggio in questo senso, perché noi imprenditori, e questa è la nostra forza probabilmente, anzi sicuramente, proprio quella di continuare a lavorare, specie in momenti di crisi come questo, magari lavorare ancora di più nella consapevolezza che prima o poi la crisi passerà. Quindi dobbiamo continuare a puntare su elementi che sono quelli stati caratterizzanti della nostra forza qui nel Trivento, che sono stati l'innovazione, per esempio, sono state la tecnologia, la formazione, un fattore sul quale io continuo a puntare tantissimo, e sono tutti questi fattori indispensabili per lo sviluppo. Ho avuto modo di parlare con imprenditori, e lei mi ha già sentito fare questa formazione, che hanno detto: in passato abbiamo avuto modo di mettere da parte qualche risparmio, abbiamo deciso che è venuto il momento forse di disinvestire quello che avevamo in altre attività e di investire tutti i nostri sforzi nelle nostre aziende, perché è nelle nostre aziende che noi crediamo. E questo è un messaggio importante. Resti con noi, Presidente Zuccato. Io vorrei capire da Aldo Bonomi, prima poi dell'introduzione alla pubblicità, intanto se anche lei, professore, nota, visto che i distretti li studia tutti, nord-est, piattaforme come le chiama lei, ma nord-ovest, centro, dorsale adriatica, sud, se obiettivamente è passato il primo shock, la prima sberla, perché nessuno immaginava quello che poi sarebbe successo, neanche i peggiori pessimisti, adesso c'è anche un elemento tra virgolette anche creativo in questa crisi, cioè si rimettono in discussione i modelli, si rimettono in moto i cervelli e via così. Ma tre sole battute. Allora, la prima, mi ricollego a quello che diceva lei, Barisoni, rispetto al concetto di crisi. Ma secondo me ci sono due interpretazioni e tutte e due vengono usate. Se questa crisi è semplicemente una crisi congiunturale, e quindi, come abbiamo visto la crisi della net economy, come stiamo assistendo alla crisi della finanziarizzazione della vita quotidiana, e ovviamente ne potremo uscire, e ci sono tracce di discussioni in questo senso, con un ciclo di green economy, lei mi capisce, che vuol dire poi fondamentalmente che ad esempio questi numeri tragici che sono stati dati del ciclo dell'auto ovviamente possono anche far intravedere che d'ora in avanti gli investimenti saranno sull'auto ecologica, e quindi avremo un nuovo ciclo espansivo che va in questa direzione. Seconda interpretazione della crisi: nulla sarà più come prima, e quindi che dovremo abituarci a coniugare contemporaneamente il concetto di crescita con il concetto di decrescita. Lei ha usato prima il termine di sobrietà da questo punto di vista, oppure il concetto di sviluppo con concetto del limite, ovviamente. Tutte e due le cose sono dentro un dibattito. Per far precipitare questo dibattito nei territori italiani, diciamo subito che i distretti che lei ha evocato sono stati sorpresi da questa crisi in una fase di transizione estremamente interessante, perché i distretti produttivi uscivano dal loro, virgolette, monospecializzazione, e Vicenza è un caso emblematico da questo punto di vista. Quando lei ha dovuto descrivere Vicenza, ha messo assieme una serie di distretti, quindi fondamentalmente la piattaforma vicentina che compete nella globalizzazione. È tutto quel territorio dove, se lei va, ci trova la Concia, ci trova il tessile, ci trova la meccatronica. Tutti quanti stavano dentro questo processo, ricalibrando come competere nella globalizzazione, perché poi questo era il punto, e la crisi ci ha sorpreso in mezzo al guado. Questo è il problema. Ci sono le energie per ripartire? A mio giudizio sì, ci sono assolutamente. Teniamo presente che è vero che i distretti e, diciamo così, la nostra economia di territorio è sempre stata molto veloce a cogliere le opportunità nelle fasi espansive, ma ha sempre avuto anche una capacità carsica di muoversi dentro le congiunture, dentro i problemi di crisi. E quindi io credo che l'atteggiamento che io sto riscontrando negli imprenditori è molto simile a quello del presidente degli industriali di Vicenza. Concordo con lui, attualmente c'è stata una fase di rallentamento e di attenzione rispetto al problema, e poi adesso invece tutti quanti stanno vedendo. Mi si dice che ad esempio gli ordini del 2009 sono fermi, ma che comunque continuano a prendere gli ordini del 2010, quindi questa è un po' la situazione. Allora, dopo la pubblicità e il meteo, vorrei sapere brevemente sia dal presidente Zuccato che dall'economista De Bonomi che cosa manca. Cioè, a nostro avviso va benissimo rimettere in moto energie, idee, cervelli, occorre anche che però si faccia sistema. Cioè, la Germania, il rischio di questa crisi, lo dicevamo ieri parlando con Beda Romano, è che i vari paesi europei si facciano concorrenza all'interno dell'Europa, perché ognuno va in ordine sparso. La Germania ha varato un piano da 80 miliardi per aiutare le sue imprese. Ecco, non vorremmo che, insomma, mordendo la crisi poi venga meno anche quei principi così europeistici e si vada troppo in ordine sparso. Quindi il ruolo delle banche, per essere ancora più chiari, è il ruolo del governo. Di nuovo in diretta, allora, per commentare ma capire anche le prospettive, questo dato brutto sulla produzione industriale, presidente dell'industria di Vicenza Roberto Zuccato. Fatto salvo l'elemento tra virgolette positivo, cioè rimboccarsi le maniche, trovare nuove soluzioni, ripartire con i fondamentali, tornare anche a investire ancora di più nelle imprese, che cosa chiedete? Guardi, lei prima accennava, prima della pausa, ha giustamente parlato di, c'è anche un problema di coordinamento a livello europeo. Di concorrenza più o meno corretta tra vari paesi, che poi si fanno aiutare dagli stati. Ecco. Esatto, però evidentemente negli Stati Uniti, nei quali mi risulta ci sia una situazione forse peggiore che in Europa, perché nel primo quarto si parla di un 7-8% di calo, però forse c'è anche una capacità reattiva diversa, proprio anche data l'essere un corpo unico e quindi avere un insieme di stati che vengono governati da un'unica manovra centrale. E qui invece la situazione è leggermente diversa, quindi là si potrà eventualmente avviare iniziative con anche maggiore libertà, dovuto al fatto anche che l'indebitamento che hanno in dollari, il dollaro se lo stampano e possono anche prevedere di mettere una forte quantità di denaro sul mercato, che poi magari nella seconda metà dell'anno porterà a una certa importante inflazione. In Europa quello che noi chiediamo, siamo molto preoccupati, specie qui nel nostro territorio dove lei sa c'è un'attenzione particolare anche agli aspetti etico-sociali. Noi abbiamo delle situazioni dei nostri alcuni dipendenti e lavoratori di alcune zone, che parlavo anche prima, quel distretto della Concia, cominciano ad avere dei problemi. Allora sarebbe importante che venissero inseriti degli ammortizzatori sociali e venissero ampliati ed estesi anche a tutti i lavoratori, perché anche a quelli delle piccole e medie imprese, anche quelli sotto un certo numero, i 15 persone, perché è importante salvaguardare anche le risorse umane che in questi anni siamo riusciti a creare, a far diventare parte integrante del nostro sociale, del nostro territorio. E in questo senso sarebbe anche opportuno che si riuscisse a dare un taglio a quello che è il cuneo fiscale. L'abbiamo chiesto in passato, continuiamo a chiederlo, perché bisogna dare maggiore capacità di spesa ai nostri lavoratori, senza però il problema delle aziende è che abbiamo il problema della competizione, come accennava lì prima, con gli altri paesi. Noi in questi ultimi anni di presenza dell'euro ovviamente ha dato stabilità all'economia, alla nostra situazione finanziaria, però nel contempo, visto la perdita di competitività e anche di maggiori costi del lavoro, ovviamente siamo diventati meno competitivi rispetto ai nostri competitors europei. Chiaro. Ecco, infine, se mi permette, chiederei, ci sarebbero bisogno almeno di aiutare le imprese che reinvestono gli utili in tecnologia e ricerca, che ci fossero defiscalizzandoli. Allora, Aldo Bonomi, lei fotografava delle imprese dei distretti italiani che sono stati colpiti da questa crisi mentre si stavano già trasformando, stavano già facendo un guado. Ora, con tutto lo sforzo e, ripeto, anche gli elementi creativi che le difficoltà portano, certo non è che tutto lo sforzo lo possono assumere loro, il rischio di una competizione tra uomini che diventano lupi, per ricordare un po', all'interno dell'Europa, per cui la Germania va da sé, la Francia si protegge i suoi campioni nazionali e noi di nuovo lasciamo gli imprenditori soli, c'è secondo lei o no? Beh, io credo che questo sia il vero rischio, perché se quello che dal punto di vista geopolitico lei ha evidenziato, in cui c'è questa difficoltà europea, per cui dentro la crisi più che gli elementi di cooperazione emergono gli elementi di competizione tra i sistemi paese, beh, io credo che questo è l'elemento negativo della crisi che noi vediamo anche nel nostro paese. Il capitalismo di territorio italiano è sempre stato e ha sempre usato la coesione sociale, usiamo questo termine, come un fattore competitivo. La coesione sociale cosa significa? Significa una capacità di sistemi territoriali, che siano i distretti o siano le piattaforme che si internazionalizzano come Vicenza, di sviluppare una capacità orizzontale di cooperazione tra il sistema delle imprese, il sistema bancario, gli enti locali e la dimensione, virgolette, di uno Stato che accompagna. Beh, questo fondamentalmente sono i quattro fattori che hanno fatto del capitalismo di territorio e dei distretti una capacità di competere e di reggere. Io noto che dentro la crisi, invece, attualmente, stanno venendo avanti degli elementi di corporativizzazione, cioè nel senso che ognuno cerca di tornare alla difesa dei propri micro o macro interessi. Questo riguarda anche ad esempio le forze sociali, nel senso che i piccoli difendono i piccoli, i grandi difendono i grandi, senza aver capito che il successo ad esempio degli ultimi anni nella transizione era dato dal fatto che c'era una cooperazione fortissima tra medie imprese internazionalizzate e le filiere produttive sul territorio. Questo significava fondamentalmente che c'era una coesione rispetto ai piccoli e rispetto ai grandi, e quindi si cominciava a risolvere quel problema sulla dimensione dell'impresa dentro un discorso di questo genere. Attualmente mi dicono, ad esempio, molte medie imprese che hanno problemi meno dentro le mura e dentro gli ordini che loro hanno ancora dentro la dimensione competitiva in cui si muovono, ma che però incomincia a entrargli dentro le mura la crisi della filiera, che ad esempio ci sono i piccoli che sono in difficoltà, e quindi il vero problema è rimettere in moto meccanismi di questo genere. È chiaro che meccanismi di questo tipo non rimandano solo ai settori dell'economia o alla capacità degli imprenditori di mettersi sotto sforzo. C'è un problema anche di, ad esempio, capacità delle regioni. Non dimentichiamo che tutte le politiche industriali, nella maggior parte dei casi oggi come oggi, sono delegate alle regioni. Pensi lei, ad esempio, come diventa importantissimo dentro la crisi, nel rapporto di fiducia tra le imprese e le banche, rimettere e attivare il meccanismo dei confidi, i confini come luogo in cui si ricrea la fiducia tra due soggetti che devono forza dialogare per competere. È chiarissimo quello che lei ricorda, Bonomi, e soprattutto risottolineo quanto lei diceva, cioè una delle forze del nostro modello produttivo dei distretti è stata anche, adesso non possiamo aprire un altro tema, ma è un dato certo, un dato di fatto, l'alta coesione sociale. Basta vedere il numero di ore di sciopero nei distretti industriali, che era drammaticamente, anzi positivamente più basso rispetto alle grandi imprese, cioè questa capacità di poi diffondere sul territorio la piccola impresa, magari per gemmazione l'operaio che diventa a sua volta imprenditore, una delle relazioni industriali fatte, si diceva una volta, anche all'osteria, oltre che con le RSU sindacali. E questa forza del territorio è la forza dei distretti. Attenzione a non perdere, soprattutto a lasciare che questa coesione si mantenga, con iniziative sia del mondo bancario, che ha una grossa responsabilità su questa crisi ed è giusto che si assuma le sue responsabilità nell'aiutare le imprese ad uscirne, e anche della politica del governo, perché insomma forse qualcosa in più, lo dicono gli stessi industriali, defiscalizzare chi investe in ricerche inutili, dare qualche vantaggio sulla tredicesima ai dipendenti, aumentare la cassa integrazione anche per chi non è una media grande impresa, ecco, giusto per aiutarle per arrivare diciamo al 2010. Grazie per la disponibilità al Presidente degli Industriali di Vicenza Roberto Zuccato, all'economista Aldo Bonomi. Le informazioni per chi è in viaggio, poi purtroppo dalla speranza torniamo alla realtà dei fatti. La borsa oggi ha preso un'altra sberla, -3,5% Milano, che è tra le migliori, perde il 5% Londra, il 4,6% Francoforte. Dunque, brutta la giornata delle borse, si sono mangiate a questo punto tutto il mini microscopico rialzo di inizio 2009, il motivo di oggi si chiama ancora una volta banche. Allora, ecco perché accanto a Livia Zancanea di Radio Corriere sulle 24 ore, ciao Livia. Buonasera. C'è anche il nostro Walter Riolfi del Sole 24 Ore. Buonasera Walter. Buonasera. Allora, con Livia Zancanel parleremo poi dei singoli titoli. Con te Walter vorrei capire che cosa è successo oggi, perché la botte forte si è arrivata al 6% a Londra, quasi, è chiuso -5,1%, Francoforte -4,6%, si diceva, Milano tutto sommato ha perso anche un punto in meno. Quello che è successo oggi, per capire dobbiamo tornare indietro di 3-4 sedute, e già venerdì sera c'era qualche novità non positiva, soprattutto negli Stati Uniti. È rimontata la preoccupazione per il sistema bancario americano. In America già si vociferava la settimana scorsa di possibili nuovi salvataggi bancari, nuove riorganizzazioni, banche che avevano bisogno di denaro, quindi possibili ricapitalizzazioni e non solo tagli dei dividendi. Allora, in questa settimana, tra ieri e oggi, le cose sono diventate più evidenti. Deutsche Bank che annuncia a sorpresa perdite ben superiori al previsto, la riorganizzazione di Citibank che cerca di vendere ovviamente in joint venture la propria attività di brokeraggio a Morgan Stanley, più per la necessità di fare cassa o di liberarsi di un'attività che per una precisa strategia. La dimostrazione che il modello di banca di Citibank, questa grandissima banca, è in crisi, e la banca probabilmente verrà spezzettata. E un terzo, si dice, dei dipendenti non resteranno più, su 300.000 erano 100.000 persone. La dice anche abbastanza lunga su quelle che erano le tendenze. Questa è l'idea che si dovrebbe andare verso un consolidamento, quindi un accorpamento delle banche. Io non ci credo molto. Tutto sommato alcune banche di medie dimensioni, specialmente in Europa, ma anche negli Stati Uniti, basta vedere Wells Fargo, si sono comportate molto meglio delle grandi banche tipo Citibank. E tu dici perché i bravi dovrebbero fondersi con i cattivi a un certo momento, per cui non è vero che... Sì, anche perché una banca delle dimensioni di Citibank, abbiamo visto, l'amministratore delegato, i vertici di Citibank nemmeno sapevano fino a qualche mese fa quali erano tutti i loro attivi, no? E quindi non potevano nemmeno comunicarlo a Bernanke della Federal Reserve. E alla SEC, eh sì. Ecco. qui c'è stata anche una crisi delle volte di dimensioni di questi dei dell'universo. Questo, diciamo, è stato il motivo scatenante, il motivo Deutsche Bank. Unito a quello delle vendite al dettaglio, che però non è così negativo. Certo, è peggiore del previsto, mi pare che siano calati negli Stati Uniti al 2,7%, ma molta parte di questo è dovuto ai prezzi della benzina, che sono diminuiti, no? Ecco Walter, io avrei una domanda per te prima di passare poi all'analisi di Livia Zancanelli sul dettaglio dei singoli titoli. Insomma, dicevamo già a novembre, così come appello alle banche, tirate fuori tutti le magagne, perché lo stilicidio, la morte lenta, il kill me softly, come dice la canzone, del trimestrale per trimestrale, dici come sei messa, quanto male ti sei fatta con investimenti scriteriati. Però almeno chiudiamo il capitolo e ripartiamo, perché sennò si continua a seminare incertezza sul mercato, sugli investimenti futuri. Ecco, tu hai notato una maggior voglia di trasparenza, oppure il tentativo di nascondere, soprattutto nei grandi gruppi bancari europei e americani, la polvere sotto il tappeto, sperando che magari in qualche modo poi, passata la festa, gabbato lo santo, si possa rinascondere tutto, c'è ancora? Ma, allora, la cosa strana, allora, torniamo indietro al 2007, gli ultimi due trimestri del 2007 o comunque l'ultimo del 2007, si diceva, era ricominciata la pulizia nei conti bancari, le grosse perdite delle banche. E quindi sono passati 4-6 trimestri circa, ogni trimestre si diceva questa è l'ultima, questa è l'ultima, questa è l'ultima. Arrivati a quest'ultimo, all'ultimo trimestre, quello di cui avremo i dati, che è l'ultimo del 2008, in America si diceva questo è l'ultimo, probabilmente non sarà assolutamente l'ultimo, no? E se noi guardiamo per esempio la crescita dei profitti aziendali negli Stati Uniti, solo un mese fa ci si aspettava una crescita del 12-15% delle profitti, soprattutto tirata dal settore finanziario, che era stato negativo un anno fa, e quindi essendo positivo adesso avrebbe enormemente alzato il monte degli utili per l'S&P 500. Invece in queste ultime due settimane, specialmente proprio nei giorni scorsi, è stata una revisione al ribasso, addirittura adesso siamo a meno 15% le stime degli utili. Sì, ecco. E abbiamo visto che le banche stanno andando ancora peggio, probabilmente non ci sarà nessuna crescita degli utili nemmeno sulle banche. Allora, non so quali siano poi gli asset, però ai vecchi asset, che tra l'altro con la deroga ai principi contabili verranno iscritti a prezzo di costo, quindi non dovranno essere svalutati, tipo gli ABS, cioè le cartolarizzazioni sui mutui, ci sono altre perdite. Adesso cominciano anche le perdite di quello che doveva essere la gestione tipica, cioè i prestiti sui gli affidamenti alle imprese. Quindi tu dici non si capisce quando, e questa è la cosa peggiore anche per il mercato a livello psicologico, quando sarà uscito tutto. Continuiamo a vedere che quella trimestrale è la peggiore, ma è l'ultima, la peggiore ma è l'ultima, ma è sempre la penultima, e questo crea poi ulteriormente incertezza. Allora, Livia Zancaner, con il ragionamento che ha fatto Walter Riolfi, si spiega da sé, anche se pesantissimo, il calo di Unicredito, meno 7,1, Banco Popolare meno 6,9, sono sempre questi due titoli che continuano a pagare di più di altri. UbiBanca meno 5, ancora sul fronte bancario, Intesa San Paolo, Monte dei Paschi, scusatemi, meno 3,7%, Intesa meno 3%. E fin qui, diciamo, l'abbiamo capita dall'analisi di Walter Riolfi. Come mai va malissimo anche Italcementi meno 7,80 e Buzzi Unice meno 5,8? Livia? Allora, i due titoli hanno risentito della debolezza del comparto a livello europeo per due motivi in particolare. Da una parte per il timore sulla congiuntura economica globale, dopo che l'OCSE ha stimato un'economia in recessione fino a metà 2009 nell'eurozona, senza contare che a marzo saranno presentate nuove stime più pessimistiche rispetto a quelle pubblicate il 25 novembre. E dall'altra parte i due titoli, quindi il comparto e più in generale, hanno risentito del tonfo della tedesca Heidelberg Cement, che a Francoforte ha perso il 15%. La società è il quarto produttore mondiale di cemento e ha annunciato un programma di vendita di asset per ristrutturare il debito e rafforzare il patrimonio. Per quanto riguarda nel dettaglio Italcementi, la società è stata anche penalizzata dal taglio del giudizio da comprare a tenere da parte di Equita Sim, che ha ridotto le stime per il 2008, 2009 e 2010 sulla società a livello di margine operativo lordo e anche di utili. Allora, dopo il Walter, una battuta, ti vedevo dopo, perché dopo il GR vorrei conoscere anche altri titoli, mi riferisco a Luxottica e a Bulgari, vorrei capire perché anche questi due titoli così legati al dollaro sono andati male. In effetti il dollaro è un po' in rafforzamento, l'euro a quota 1,31, eppure Bulgari ha perso il 5% secco, Luxottica il 6,3%. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per concludere l'approfondimento sulla borsa. Brutta giornata, soprattutto Francoforte, causa principale Deutsche Bank, trimestrale peggiore delle attese, perdite anche nel 2008, e chiaramente tutto il mondo bancario ne ha risentito anche in Italia. Unicredit la peggiore, anche perché Unicredit è quella che ha più attività nell'area tedesca, Hypo Vereinsbank, ma anche austriaca e dell'est Europa. E certo che vedere Unicredit tornare a 1,61 euro, se pensiamo che un anno fa ne quotava quasi 6, insomma, è pesante. Ma al di là del mondo bancario, Livia Zancanè, vorrei capire, e al di là di Talcementi e di Buzzi Unici, ma anche i casi Bulgari e Luxottica, visto che l'euro in questo caso, o meglio il dollaro, si è anche rafforzato. Infatti la Luxottica oggi ha ceduto il 6,28%. La società è stata colpita nelle ultime giornate da alcune prese di beneficio che hanno portato infatti le azioni a cedere oltre l'11% dall'8 gennaio. Questo calo ha annullato quindi i guadagni realizzati da inizio anno dovuti principalmente a rally del dollaro. Infatti il biglietto verde oggi quota 1,31 sull'euro, mentre a fine dicembre trattava a 1,41. Quindi gli operatori, come per Bulgari che ha perso dal 7 gennaio circa il 16%, motivano questo calo con appunto prese di beneficio dopo il rally di inizio anno. Per quanto riguarda Luxottica in particolare, gli esperti si aspettano un quarto trimestre debole a livello di vendite e una debolezza che continuerà probabilmente per tutto il primo semestre 2009, quindi chi aveva realizzato dei guadagni a inizio anno ora ne ha approfittato per vendere. Allora, gli altri titoli non è che se la passino molto meglio, ma comunque Autogrill meno 5, Pirelli meno 4,3, come sti Microelectronics, il 4% l'hanno perso sia Saipem che Tenaris che Atlantia, ma anche Telecom Italia. Il Monte dei Paschi abbiamo detto meno 3,7, il 3,6 lo ha perso Prysmian, il 3,3 sia Eni che le Generali, che Seat pagine gialle, il 3,2 il calo di Fiat. Il 3% lo dicevamo di Intesa, media 7-2,90, in pregilo meno 2,7 come Fastweb, il 2,5 l'ha perso Finmeccanica, Unipol e anche Enel, e chiudiamo col 2% di Lottomatica. Bene invece Terna più 1,4, Snam più 0,5%, bene anche Mediobanca più 1%. Allora, Terna, Snam e anche Edison, che nel Midex ha chiuso una buona giornata. Sì, allora per quanto riguarda Terna e Snam, allora secondo gli operatori si tratta di titoli difensivi in cui gli investitori si rifugiano in questo momento di recessione in cui il mercato è preoccupato per i nuovi timori, in particolare sul mercato del credito. Bisogna sottolineare che Terna infatti nel 2008 è stata tra le società che ha tenuto maggiormente, cioè in realtà che ha perso di meno, in quanto ha segnato un calo del 15,3%, e Morgan Stanley in un report di qualche settimana fa giudicava infatti sottovalutate a sconto sia Terna sia Snam Rete Gas, che oggi hanno chiuso in territorio positivo. Per quanto riguarda Edison, allora oggi ha guadagnato oltre l'1% e la società ha beneficiato ancora delle indiscrezioni secondo cui il 10% del gruppo in mano alla tassara di Roman Zaleski potrebbe essere rilevato da Transalpina di Energia, che è controllata da EDF e da A2A. Venerdì si riunirà proprio un CDA di A2A, ma Renzo Capra, che è presidente del consiglio di sorveglianza della società, ha detto che all'ordine del giorno del CDA di venerdì non ci sono argomenti inerenti appunto alla partecipazione in Edison, che si tratterà di un CDA di routine già convocato da tempo. Beh, staremo a vedere. Domani ricordo la Banca Centrale Europea sui tassi, le attese sono di un ulteriore taglio. Walter Riolfi, il settore bancario, perché a tuo avviso l'aspetto del credito è quello, l'hai scritto anche, insomma, è quello che pesa di più in questo momento rispetto anche alla crisi economica in senso stretto? Allora, prima di tutto la recessione è stata una recessione soprattutto indotta dalla crisi del credito. Ma paradossalmente, allora, mentre in una recessione normale, quindi trattando di temi economici, può esserci qualche prevedibilità, una maggior prevedibilità? Non sappiamo se il fondo verrà toccato a marzo, maggio, giugno, questo non lo sappiamo. Però riusciamo a vedere dai dati macroeconomici lo svolgimento della crisi economica. In questo qui del credito sono delle sorprese, non dico quotidiane, ma ogni mese c'è una sorpresa. Non sappiamo ancora quanto c'è da svalutare, non sappiamo ancora quali sono le perdite. Tutti negano, dicono di essere patrimonializzati. In realtà, abbiamo visto che anche in Inghilterra qui le banche inglesi hanno bisogno ancora ulteriormente, tipo HSBC, di essere patrimonializzate. La stessa cosa in America. In Italia, per il momento non è dato sapere, ma come minimo queste qui ridurranno i dividendi o li taglieranno se non hanno bisogno di nuovi capitali. Quindi la crisi del credito è ancora in pieno svolgimento, almeno per quanto riguarda gli istituti bancari. Mentre altri indicatori tipo l'Euribor, alcuni tassi di interesse sembrano andare leggermente meglio, ma per quanto riguarda gli attori, le banche, la crisi è ancora nel pieno svolgimento. Questa non è una buona notizia sicuramente, ed è vero che rispetto a altre crisi questa componente è totalmente incerta, anche perché delle volte noi abbiamo l'impressione che nemmeno loro sappiano esattamente quanto devono svalutare, altre volte abbiamo l'impressione che lo sappiano ma preferiscono aspettare fino all'ultimo per vedere se qualcosa può migliorare. Ma insomma, di riffa o di raffa, con le banche ancora non si è capito quale sia la situazione, quanto pesante sia il danno sul settore bancario. Parlo a livello europeo, non solo a livello italiano. Grazie a Walter Riolfi e a Livia Zancaner. Di nuovo la crisi tra Russia e Ucraina. Abbiamo fatto sentire nella prima ora del programma le dichiarazioni del Presidente della Commissione Europea, Barroso, il quale ha detto se si bloccano le forniture noi faremo ricorso alle vie legali, perché questi sono contratti di pagamento, contratti già firmati e quant'altro. E poi ha anche detto attenzione, nei paesi più colpiti, e cioè Bulgaria, Grecia, Slovacchia, quelli che dipendono quasi al 100% dal gas russo, si contano decine di migliaia di famiglie senza riscaldamento e senza gas per cucinare per i propri bimbi. Solo 50.000 in Bulgaria. Vladimir Sapochnikov in collegamento con noi da Mosca, buonasera. Sì, buonasera, allora, a tutti i nostri ascoltatori. Vladimir, ma perché si è riaperta dopo che sembrava l'accordo raggiunto, avvia le forniture, e invece lamentano in Europa, non solo in Italia, che il gas o non stia arrivando o stia arrivando col contagocce? Il problema è abbastanza semplice. Dal punto di vista tecnico, per trasportare metano a lunghe distanze ci vuole una certa pressione nei gasdotti, e Gazprom durante i trasporti prima del blackout riforniva l'Ucraina, oltre alle quantità richieste dall'Europa, di questo cosiddetto gas tecnico che raggiunge 22, 25, 23 milioni di metri cubi di metano. Praticamente dopo la chiusura dei rubinetti da parte di Gazprom, l'Ucraina avrebbe usato questo gas tecnico per rifornire di metano alcune regioni ucraine nella parte occidentale di questo paese, e il tubo è rimasto senza il gas tecnico, e adesso per riprendere le forniture bisogna riempirlo di nuovo. La Russia assolutamente non vuole farlo e cerca vie alternative. Per esempio, durante l'incontro oggi tra il primo ministro russo Vladimir Putin e i premier della Slovacchia, della Bulgaria, della Moldavia, è stato proposto per la Slovacchia di ottenere le quantità richieste del gas direttamente dai magazzini sotterranei dell'Ucraina, mentre Gazprom si impegnerebbe a rimborsare all'Ucraina il gas offerto alla Slovacchia. Questa è una nuova proposta che adesso dovrà essere studiata e ripresentata anche al summit dei paesi importatori del gas russo, che il presidente Dmitry Medvedev ha proposto di convocare sabato prossimo a Mosca. Il 17 appunto, quindi anche un problema tecnico. In effetti, per pompare gas occorre che ci sia molta pressione nelle pipelines, nei tubi del gas. Se il gas tecnico, cioè quello che serve a creare pressione, viene utilizzato per uso domestico o comunque industriale, poi occorre rimetterne dell'altro, e come tu ci hai ben raccontato, Gazprom non vuole. Speriamo si mettano d'accordo i due, lo dico con massimo, diciamo, rispetto, però insomma sono anche delle baruffe chiozzotte delle volte tra Kiev e Mosca. Andiamo su un altro tema, grazie Vladimir Sapochnikov in collegamento con noi da Mosca. Ultimo tema, la produzione industriale, non il dato di oggi che abbiamo già ampiamente commentato nella prima ora del programma, questo calo brusco, bruschissimo, atteso, ma insomma il calo più ampio da gennaio del 91, ossia meno 9,7% novembre 2008 su novembre 2007, ma la previsione su dicembre. Eh sì, perché ormai ragioniamo su dicembre e poi anche eventualmente su come si sta muovendo gennaio. Ricordo a chi si fosse messo in collegamento che il contributo principale a questa brutta produzione industriale di novembre l'ha dato il settore auto, meno 42%. Luca Paolazzi, direttore del Centro Studi Confindustria, nostro ospite già altre volte, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, a dicembre come andrà? Visto che avete diffuso anche la stima su dicembre. Ma le nostre previsioni danno un altro calo dopo il meno 2-3% in novembre, un calo del meno 2-1% e quindi si chiude male il trimestre e con una flessione complessiva sul trimestre precedente del 6,2%, è un vero tonfo e d'altronde in questa direzione muovono vari indicatori oltre alla rilevazione che abbiamo fatto presso un panel di imprese e anche i dati dei responsabili degli acquisti, dove per l'Italia nel settore manifatturiero ci collochiamo su una soglia intorno a 35, ricordo che 50 è il discrimine fra espansione e contrazione d'attività, quindi siamo 15 punti sotto quella soglia e anche diciamo le inchieste effettuate dall'ISAE presso le imprese manifatturiere davano aspettative di produzione in calo e quindi mi sembra, quindi il meno 10% di dicembre 2008 su dicembre 2007 è dovuto, insomma, a questo insieme di fattori. Anche a dicembre, secondo quanto avete visto, la responsabilità, diciamo così, principale sarà da attribuirsi al settore auto, perché insomma meno 40% a novembre è una cosa che impressiona. Sì, però teniamo presente che non è solo il settore auto, ci sono tanti settori che hanno fatto ricorso a ferie più lunghe, hanno fatto ricorso a cassa integrazione, hanno fatto ricorso a riduzione di orari nella settimana, pensiamo al settore delle piastrelle, tanto per dirne uno, che lavora molto con gli Stati Uniti d'America e in generale lavora con un settore, quello dell'edilizia, soprattutto l'edilizia residenziale, che è in crisi in questo momento un po' ovunque. Pensiamo al settore tessile, insomma ci sono tanti i settori in difficoltà, gli elettrodomestici intesi come elettrodomestici bianchi, cioè frigoriferi, lavatrici e così via, anche quelli sono in grave difficoltà da tempo. Ecco, non arriva qualche segnale, non so, per esempio oggi dall'Istat c'era un settore tessile un po' più in tenuta, ma dagli ordinativi, cioè la domanda so che è sempre difficile, ma è anche... No, al contrario, gli ordinativi hanno continuato a scendere anche nella nostra ultima rilevazione, e tant'è che appunto abbiamo un meno 4% o meno 4,3% rispetto a novembre, quando pure si era avuto già un altro calo dell'8,1, e questo ovviamente significa che la produzione nei prossimi mesi continuerà a scendere. Il problema è a quale velocità, perché già diciamo un rallentamento della discesa sarebbe un miglioramento, perché potrebbe preludere o preparare a una stasi prima e a un rilancio poi. Però il segno inequivocabilmente sarà ancora negativo nei prossimi mesi. Voi state già lavorando su una revisione delle prospettive a questo punto sul PIL italiano, visto diciamo la frenata o appunto con cui si è entrati nel 2009, è troppo presto? Per fare diciamo un nuovo round di previsione francamente è presto, anche perché in realtà quello che è rilevante, e lo avevamo scritto anche nel rapporto rilasciato a dicembre, non è tanto fissare il numero della variazione del PIL quest'anno, quanto capire quale sarà il profilo nel corso dell'anno, certo. Cioè se ci sarà o non ci sarà già nella seconda metà dell'anno un qualche segnale di ripresa, come dicevo prima. È chiaro però che questi numeri di produzione industriale fanno emergere una dinamica del PIL nel quarto trimestre peggiore di quello che ci si poteva attendere, per cui siamo a un meno 1-2% quarto trimestre sul terzo trimestre, e questo è sensibilmente più basso del dato che era incorporato nelle nostre previsioni. Inevitabilmente ciò significa che anche il dato del 2008 peggiora, seppure leggermente, da un meno 0,5 a un meno 0,6, e peggiora anche ovviamente quello del 2009. Però ripeto, non è tanto il dato medio anno del 2009 che conta quanto il profilo. Ricordiamoci che è già così. Il 2009 parte con un meno 1,1% di trascinamento negativo dal 2008, cioè se nel corso del 2009 il PIL non dovesse più variare, e sarebbe già un grande successo, il segno dell'anno sarebbe un meno 1,1%, cioè nettamente peggiore del meno 0,6% del 2008, e il responsabile di questo meno 1,1% è il 2008, cioè non ha nulla a che fare con la dinamica dell'economia nell'anno in corso. Quindi, se tutto va bene, nel senso che il PIL non cala ulteriormente, chiudiamo il 2009 con un meno 1,1. Ovvio che, stando a quello che tu ci hai raccontato, difficile che si riesca a ottenere un risultato che in altri anni sarebbe stato un bella recessione negativa, e adesso invece lo accoglieremo quasi come un contenimento. Ma la cosa più importante che tu ricordavi è che quest'anno, tanto la crisi sappiamo che c'è, sappiamo che gli effetti si scaricheranno, che morderà, è una crisi internazionale. Poco fa Walter Riolfi ci ricordava come il mondo del credito ancora non abbia chiarito quanto male si è fatto con i prodotti tossici, continuo stilicidio di informazioni, lo si vede oggi in borsa. La cosa più importante, se ho ben capito, è vedere con che velocità si entrerà, cioè cosa capiterà, più che la singola cifra, se qualcosa ripartirà a fine 2009, quindi si entrerà nel 2010 con una certa velocità, oppure si sarà ancora in mezzo al guado. Grazie direttore del Centro Studi di Confindustria Luca Paolazzi, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi.